Mosè radunò tutta la comunità dei figli di Israele e disse loro: «Queste sono le cose che il Signore ha ordinato di fare. Per 6 giorni lavorerete, ma il 7° giorno sarà santo per voi. È riposo assoluto in onore del Signore. Chiunque vi farà un lavoro sarà messo a morte. Non accenderete il fuoco in nessuna vostra dimora nel giorno di sabato». Mosè disse a tutta la comunità dei figli di Israele: «Ecco che cosa ha ordinato il Signore. Prendete tra voi un prelievo per il Signore. Chiunque è spinto dal proprio cuore porterà al Signore un prelievo in oro, argento e bronzo, porpora viola, porpora rossa, scarlatto, bisso e tessuto di peli di capra, pelli di montone tinte di rosso, pelli conciate e legni di acacia, olio per illuminazione, balsami per olio d'unzione e per l'incenso aromatico, pietre d'onice e pietre da incastonare nell'efod e nel pettorale. Ogni sapiente di cuore tra voi verrà e farà tutto quello che il Signore ha ordinato. La dimora e la sua tenda, la sua copertura, le sue fibbie, le sue assi, le sue traverse, le sue colonne e le sue basi, l'arca e le sue stanghe, il propiziatorio e il velo delle cortine di copertura, la tavola, le sue stanghe, tutti i suoi oggetti e il pane di presentazione, il candelabro dell'illuminazione, tutti i suoi oggetti, le sue lampade e l'olio dell'illuminazione, l'altare dell'incenso, le sue stanghe, l'olio dell'unzione, l'incenso aromatico, la cortina d'ingresso all'entrata della dimora, l'altare dell'olocausto con la sua graticola di bronzo, le sue sbarre e tutti i suoi oggetti, la vasca e il suo supporto, i tendaggi del recinto, le sue colonne, le sue basi e la cortina della porta del recinto, i picchetti della dimora, i picchetti del recinto e le loro corde, le vesti da cerimonia per il servizio del santuario, le vesti sacre per il sacerdote Aronne e le vesti dei suoi figli per il sacerdozio». Tutta la comunità dei figli di Israele uscì dalla presenza di Mosè. Poi vennero, ognuno portato dal proprio cuore, ognuno spinto da proprio spirito, e portarono il prelievo del Signore per l'opera della tenda del convegno, per tutto il suo servizio e per le vesti sacre. Vennero gli uomini con le donne, chiunque era spinto dal cuore, e portarono fermagli, pendenti, anelli, collane, ogni oggetto d'oro, tutti quelli che volevano fare un'offerta di oro al Signore. E tutti quelli che possedevano porpora viola, porpora rossa, scarlatto, bisso, tessuto di peli di capra, pelli di montone tinte di rosso, pelli conciate, li portarono. Chiunque poteva offrire un prelievo d'argento e di bronzo, portò il prelievo del Signore. E tutti quelli che si trovarono legno d'acacia per ogni opera da eseguire, lo portarono. Ogni donna saggia di cuore, con le proprie mani, filò, e portarono del filato, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso. Tutte le donne, portate dal proprio cuore con saggezza, filarono i peli di capra. I capi portarono pietre d'onice e pietre da incastonare nell'efod e nel pettorale, balsamo, olio per l'illuminazione, olio d'unzione e incenso aromatico. Ogni uomo e donna, spinti dal proprio cuore a portare qualcosa per l'opera che il Signore aveva ordinato di fare per mezzo di Mosè, i figli di Israele portarono volontariamente al Signore. Mosè disse ai figli di Israele: «Vedete, il Signore ha chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. Lo Spirito di Dio lo ha riempito di sapienza, intelligenza, scienza per ogni opera, per progettare artisticamente ed eseguire in oro, argento e bronzo, per scolpire la pietra da incastonare, per intagliare il legno, per fare ogni opera ad arte. Ha posto nel suo cuore la facoltà di insegnare in lui e in Oholiab, figlio di Achisamac, della tribù di Dan. Li ha riempiti della sapienza del cuore per fare ogni opera di intagliatore, disegnatore, ricamatore con porpora viola, porpora rossa, scarlatto, bisso e di tessitore, capaci di compiere ogni opera e di progettarla artisticamente».